2024. Vincitore dello European Podcast Award, il premio ai migliori podcast europei. 2024 di Enrico Pagliarini. Ed ecco a voi la puntata del 28 dicembre, 29 dicembre, weekend, ultimo weekend del 2013. Benvenuti o bentornati a 2024. Io sono Enrico Pagliarini, ci trovate anche su Facebook o su Twitter e naturalmente trovate la nostra puntata anche sul nostro sito internet www.radio24.it. Iniziamo da una buona notizia. La prima notizia di questa settimana riguarda la contestata, potremmo dire contestatissima da tutti coloro che a vario titolo lavorano nell'economia digitale, la ormai famosa web tax. Allora, la norma introdotta nella legge di stabilità, che prevede l'obbligo per chi acquista pubblicità online di rivolgersi solo ad operatori con partita IVA italiana, è stata posticipata al 1 luglio. Quindi già questa è una buona notizia, poi si dovrà lavorare per cercare o di eliminarla direttamente, visto che è molto probabilmente anche contraria alle normative europee, o comunque di modificarla ulteriormente oppure posticiparla di nuovo. Allora, la decisione è stata presa dal governo, che ha inserito lo slittamento nel decreto mille proroghe. Quindi sicuramente il governo ha raccolto le perplessità di molti operatori e anche di molti esperti in materia fiscale, che hanno sollevato appunto dubbi sul fatto che questa normativa, che questa nuova tassa potesse essere compatibile con le normative europee. Allora, ricordiamo che la web tax, secondo gli ideatori, farebbe pagare milioni di tasse a grandi operatori della rete come Google o Facebook, che dovrebbero spostare le loro sedi operative in Italia dall'Irlanda. Di fatto questi operatori hanno sedi in Italia, ma sono sedi molto piccole, o comunque che non fatturano buona parte della pubblicità che viene venduta, che viene fatturata invece dall'Irlanda, che è uno dei paesi con la fiscalità più amica delle aziende in Europa. Tutto ciò è permesso dalle normative europee, quindi questa previsione della web tax sarebbe incompatibile con le normative europee. Allora, molti dicono, bisognerà poi vedere se questi grandi operatori faranno questo passaggio. In realtà, fanno osservare molti che ci hanno scritto, uno degli effetti più probabili di questo provvedimento colpirebbe invece le aziende italiane che esportano e anche molte piccole e medie aziende che operano su internet. Allora, ad esempio, chi deve fare pubblicità online per un proprio prodotto in paesi stranieri dovrebbe rivolgersi ad un operatore con partita IVA italiana, cosa in molti casi improbabile. Facciamo l'esempio, l'abbiamo fatto anche altre volte. Diciamo, l'abbiamo fatto una volta. Un operatore pubblicitario che lavora per conto di un'azienda che esporta vino in Italia, che magari deve fare pubblicità su un sito internet cinese. Oppure a 2024 ricorderete che abbiamo parlato di un operatore sardo, Pala Wines, Pala Vini, che fa pubblicità su una web radio americana. Allora, in questi casi ci si dovrebbe rivolgere ad un operatore che ha partita IVA italiana, ma pensate voi se la web radio americana oppure un operatore magari medio piccolo cinese si mette ad aprire una posizione fiscale nel nostro paese, e questo naturalmente va a danno di queste aziende che trovano un vincolo ulteriore per esportare, per fare pubblicità dei loro prodotti all'estero. Quindi è molto più probabile che questa operazione danneggi le medie e piccole aziende italiane piuttosto che scalfisca qualche pezzo, qualche milione di euro da Google o da Facebook. Che il problema esista non c'è dubbio, ma internet è fatta in questo modo, non è possibile operare con misure del vecchio secolo in un secolo che oramai vede la digitalizzazione diffondersi sempre di più. Come dicevamo la scorsa settimana, commentando questa previsione di legge, questa web tax, è un po' come mettere le barriere al mare, no? Bene, naturalmente anche questa settimana, anche se è una settimana a regime più ridotto rispetto al solito, ci sono altre notizie. Allora, ascoltiamo in breve alcune notizie della settimana. Digital News. Iniziamo da Mediaset. Dopo aver lanciato Infinity, il nuovo servizio di video on demand con 5.000 film a 10 euro al mese, film visibili su internet, anche naturalmente tramite una TV collegata a internet, allora Mediaset ha appena lanciato un nuovo servizio che si chiama Rewind o Rewind. Di fatto è una catch-up TV, si dice così in gergo, un servizio che propone gli ultimi 7 giorni dei canali Mediaset del digitale terrestre, quindi non solo Canale 5, Italia 1, Rete 4, ma anche tutti gli altri come Iris, Top Crime, eccetera, eccetera. È stato creato per i televisori e dal TV collegato ad internet è possibile rivedere tutto quello che è andato in onda negli ultimi 7 giorni. Per ora questo servizio funziona con dispositivi e solo con dispositivi certificati TV On, quindi sono ancora pochi gli apparecchi che permettono di utilizzare questo servizio. Mediaset Rewind si aggiunge a Rai Replay e La 7 On Demand. In tutti questi casi i servizi funzionano solo su determinati dispositivi, cioè solo su determinati TV, mentre se si guarda da PC o da tablet non c'è nessuna limitazione, uno va sui siti internet e può rivedere tutto quello che è andato in onda negli ultimi giorni. Un giudice della Corte distrettuale di Manhattan ha stabilito che il programma di controllo delle telefonate private ad opera della NSA, quindi la National Security Agency americana, sarebbe lecito, quindi si può fare tutto quello che è stato fatto. Il giudice ha respinto un ricorso presentato dalla American Civil Liberties Union, cioè un'organizzazione a difesa dei diritti civili negli Stati Uniti. Secondo il giudice, cioè secondo questa associazione, non è legale che un'agenzia federale possa sorvegliare milioni di telefonate di americani. Invece il giudice ha detto che si può fare per motivi prevalentemente legati alla difesa degli stessi cittadini dal terrorismo. Sul tema c'è anche chi la pensa diversamente, perché in un giudizio preliminare un giudice distrettuale della Corte di Washington, ha detto che il programma della National Security Agency potrebbe invece essere incostituzionale. Sicuramente il dibattito continua soprattutto negli Stati Uniti e Barack Obama dovrebbe intervenire a gennaio sul tema. Parliamo adesso della RSA, una delle più note e affidabili società di sicurezza digitale, che ha smentito e negato fortemente di avere firmato un contratto segreto con sempre la National Security Agency, così come invece aveva svelato la Reuters la settimana scorsa. Secondo le indiscrezioni, RSA aveva accettato di inserire nei sistemi di cifratura un codice fornito dalla NSA, che quindi avrebbe permesso all'intelligence americana di bucare molti sistemi che usano RSA come provider di sicurezza. In gergo tecnico si chiamano backdoor. Naturalmente un altro dei dibattiti molto, molto acceso negli Stati Uniti è relativo ai danni economici che le aziende americane stanno subendo o subiranno nei prossimi mesi o addirittura nei prossimi anni a causa delle rivelazioni di Edward Snowden, colui che ha svelato questa macchina incredibile della National Security Agency. Lo ricordiamo, lo diciamo più volte, sicuramente non ci sono solo gli americani a spiare con un apparato tecnologico così molto evoluto, ma probabilmente, quasi sicuramente, tutte le intelligence del mondo, quindi dai russi ai cinesi, agli israeliani, agli indiani, giapponesi, e la fila si allunga, per non parlare poi degli europei. Quindi diciamo che Snowden ha svelato una cosa che lui conosceva perché lavorava presso l'intelligence americana, ma è molto probabilmente uno Snowden russo o cinese verrebbe ucciso alla seconda parola che pronuncia. Quindi probabilmente non sapremo mai nulla di così preciso e dettagliato da una persona di un altro paese, e invece per quanto riguarda gli Stati Uniti abbiamo saputo un sacco di informazioni. C'è chi dice che c'è un problema, perché molti stati non americani potrebbero prendere dei provvedimenti e dire: no, se voi avete un apparato di intelligence così evoluto che, come è stato svelato, arriva e coinvolge addirittura le industrie americane, beh, noi potremo scegliere di prendere prodotti non americani. Questo sicuramente è un problema economico per le aziende italiane. Ultima notizia che riguarda la Cina e la Apple. Dal 17 gennaio i clienti di China Mobile potranno acquistare un iPhone e utilizzarlo sulla rete del più grande operatore cinese e anche il più grande operatore del mondo. Allora, la notizia è molto importante soprattutto per la Apple, perché pensate che China Mobile ha 760 milioni di clienti e finora le proprie reti non permettevano l'uso di iPhone. Quindi è un accordo molto importante per l'Apple. Apple, che comunque era già presente in Cina, quindi non sono corrette le informazioni che dicono che l'Apple sbarca in Cina, sbarca sulla rete di questo grande e gigante operatore. Allora, l'Apple era già in Cina tramite China Unicom e anche China Telecom. In Cina ricordiamo che ci sono 1,2 miliardi di utenti alla telefonia mobile. Bene, adesso il nostro primo approfondimento, l'approfondimento di questa settimana, che è legato e dedicato al cinema digitale. Perché? Perché nel 2014 succederanno alcune cose, il 2014 sarà un anno di svolta sicuramente importante. Saluto Gianfranco Giardina, uno degli esperti di 2024, direttore del magazine digitale dday.it. Gianfranco, bentornato a 2024. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Oggi ci aiuta anche in questa chiacchierata Piero Fumagalli, che è, possiamo dire, l'inventore dell'Arcadia, poi spieghiamo che cos'è l'Arcadia. Fumagalli, bentornato a 2024. Inventore mi sembra un termine esagerato, comunque. Vabbè, poi spieghiamo. Benvenuto comunque. Benvenuto a tutti voi. Allora, Gianfranco, iniziamo dicendo che noi probabilmente quest'altr'anno scriveremo sui libri di storia che il cinema passerà, o se la guardiamo nel futuro, il cinema è passato nel 2014 al digitale, completamente al digitale. In realtà dobbiamo spiegare alcune cose, che buona parte oramai del cinema è già digitale. Sì, è già digitale perché i film vengono prodotti largamente in digitale già oggi, quindi vengono già ripresi con delle videocamere, non in pellicola. Quando anche vengono ripresi in pellicola, poi spesso, se c'è da aggiungere degli effetti speciali, vengono comunque digitalizzati e trattati sulle workstation digitali per l'inserimento degli effetti speciali e poi eventualmente ristampati in pellicola con dei film printer, già molte sale da diverso tempo sono equipaggiate con proiettori digitali, questo non solo per proiettare dei film, ma anche, per esempio, è iniziato un po' con la pubblicità, la parte di advertising veniva proiettata in digitale e poi il film in pellicola, poi anche per proiettare degli eventi, per esempio eventi televisivi o di natura televisiva, anche convention, sì. Le sale cinematografiche sono usate anche per quello, e poi è arrivato anche il cinema in digitale, che è già in distribuzione per le sale equipaggiate. Quello che è successo è che sia Fuji che Kodak, che sono i due ultimi produttori di pellicola, Kodak sta interrompendo la produzione di pellicola, motivo per cui addirittura è stato così commentato il fatto che, per esempio, Ken Loach, che sta finendo l'editing di un proprio film in pellicola, aveva finito le pellicole, non trovava più fornitore per le pellicole, e dalla Pixar abbiano mandato come regalo a Ken Loach le ultime pizze di pellicola ancora da impressionare che avevano in magazzino, e quindi stanno proprio finendo le ultime scorte. Quindi, gioco forza, il mondo del cinema deve abbandonare la pellicola, che è un cambiamento veramente epocale, tanto più per noi italiani, che addirittura l'abbiamo inserito nel nostro linguaggio. Noi, se andiamo al cinema, diciamo che andiamo a vedere un film, ma film in inglese vuol dire appunto pellicola. Mentre non abbiamo una traduzione per l'inglese movie, o comunque sì, non lo utilizziamo. Noi diciamo film, no? Sì, sì. Ecco, film. Quindi praticamente già il nostro termine film diventa di fatto obsoleto. Quindi noi continueremo a usare film in un mondo in cui il film non ci sarà non più, esiste cioè più, la pellicola, certo, non ci sarà più. Adesso ci fermiamo per un minuto, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24. A tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprendiamo questa ultima puntata del 2013 di 2024 dedicata al cinema digitale, perché il prossimo anno ci dobbiamo preparare, perché nei libri di storia scriveremo che sicuramente c'è stato il passaggio definitivo, quindi non rimarrà quasi più, no, senza il quasi, diciamo, sicuramente non rimarranno più pellicole e non rimarranno più cinema che potranno proiettare film in pellicola. Il passaggio sarà graduale nel corso dei mesi. Comunque già in questi mesi molte piccole sale in alcune regioni più fortunate ci sono anche contributi regionali per acquistare, quindi passare dall'analogico al digitale. Comunque molte sale si devono attrezzare per questo passaggio. Stiamo parlando con Gianfranco Giardina, il direttore del magazine digitale dday.it, e con Piero Fumagalli, che è il proprietario dell'Arcadia, uno dei primi cinema in Italia ad aver affrontato il passaggio al digitale qualche anno fa. Dunque Gianfranco, dicevamo prima della pellicola, succederà come nel mondo della musica, dove il vinile è scomparso, ma rimane una piccola fetta di appassionati, di nostalgici, e quindi i produttori hanno di fatto creato un'offerta per questa domanda molto marginale in un mercato che oramai è completamente digitalizzato. Secondo te succederà la stessa cosa anche nel mondo della pellicola, del cinema? Ma allora, un po' di riflusso ci potrebbe anche essere. C'è chi dice che oggi, in questo momento specifico, è molto conveniente, ancora ritornato paradossalmente conveniente, realizzare un film in pellicola, perché in questo momento le cineprese sono a prezzo di rottame, quindi certo. Si trovano sul mercato ampiamente a prezzo bassissimo, e anche chi non le usa più, gli ultimi residui di pellicola, ovviamente potrebbe usarli, però è una cosa a termine. C'è un altro mondo che deve temere, che è quello della fotografia. Adesso ci accenniamo velocemente, ma Kodak aveva sostenuto che avrebbe continuato a produrre rullini fotografici chimici fino a quando avrebbe avuto le linee attive della pellicola per il cinema, perché comunque di fatto la linea produttiva è assolutamente la stessa. Sempre di pellicole. Se interrompe quella linea produttiva del cinema, che era quella che in realtà faceva i grandi consumi, vedremo sparire anche le pellicole fotografiche. Bene, noi non piangeremo più di tanto. Fumagalli, allora, diciamo che l'Arcadia era uno dei primi veri cinema multisala in Italia, nato a Melzo, che è qui vicino a Milano. Poi si sono moltiplicati gli Arcadia in altri luoghi. Comunque voi siete, oltre che tra i più appassionati nel mondo del cinema, tra gli esercenti, anche più competenti e i pionieri del cinema digitale. Per quanto vi riguarda, il passaggio dall'analogico al digitale è una cosa che avete vissuto quanti anni fa? Ma dunque, tieni conto che Arcadia era stato progettato nel 97 e già allora le cabine di proiezione prevedevano in asse lo spazio per i proiettori digitali, che ancora non esistevano, però comunque si sapeva. E per la verità io pensavo che il passaggio fosse una cosa di 4-5 anni, non di 16, come in effetti ce ne sono voluti. E volevo tornare un attimo sul discorso invece di questa nicchia di persone che magari resteranno collegati alla pellicola. Sì. Io sto vedendo un po' questa cosa, perché noi negli anni abbiamo fatto stampare moltissime copie, anche in 70 mm di film, che adesso abbiamo nel magazzino, essendo nostri, e sto vedendo proprio questa morte, perché vedo queste copie che diventano rosse, che man mano perdono le loro, ed è veramente una cosa che mi fa un po' veramente soffrire, però è inevitabile, insomma, è chiaro, il passaggio oramai è definitivo e quindi non si tornerà mai indietro. Voi da quanto tempo avete solo proiettori digitali nelle vostre sale? Facciamo solo proiezione digitale, sono 3 anni. 3 anni. Quante sale avete? Voi avete 3 multisale, giusto? Sì, sono 22 sale con 22 proiettori. In effetti Poi abbiamo delle sale in cui i proiettori sono doppi in energia per ragioni di schermo, sai che c'è lo schermo di 30 metri di base, per cui sì. la proiezione che oggi e la quantità di luce che un proiettore digitale può dare sarebbe insufficiente per fare uno schermo così grande, per cui ci sono due proiettori che proiettano contemporaneamente la stessa immagine sovrapposta per arrivare ai 14 full lambda richiesti, insomma. Sì, la luminosità richiesta. Esatto. Ricorda a tutti i nostri ascoltatori che la sala energia è, non so se la sala più grande d'Europa addirittura. Dunque, lo schermo che è montato in realtà non è possibile fare, è un Perlux, che la sua particolarità è che non ci sono saldature, no? Quindi è un telo unico. Più grande di così l'Arkness, che è questa ditta inglese che fa gli schermi, non ne può produrre. Quando abbiamo progettato il cinema, noi abbiamo ancora 5 metri in verticale che potrebbero essere occupati da uno schermo, perché allora si prevedeva che avrebbero costruito negli Stati Uniti uno stabilimento con un capannone più grande per poter fare uno schermo maggiore. Ma poi non è stato fatto perché le richieste insomma non sono così. Quindi cos'è? Da giustificare. Sì. È 30x14. 30x14 ed è il più grande d'Europa? Esatto. Beh, è più grande comunque di quel tipo del mondo, nel senso che ce ne sono altri tre installati nel mondo, ma sono grandi uguali, perché più grandi di così non era possibile farli. Non è farlo. Possibile farli. Che cosa è cambiato per voi, diciamo, per un esercente che fa film per gli spettatori con il passaggio dalla pellicola al digitale, quindi al proiettore, perché stiamo parlando di proiettori che sono molto grossi, poi magari diciamo qualcosa sui proiettori, però sostanzialmente, lo dico per gli ascoltatori, sono proiettori come i proiettori che ci sono anche in molti casi, in molte case. Beh, in realtà fai conto che sono, non so, 5-6 volte più grandi di quelli che potete vedere in giro digitali normali per l'home theater, diciamo, sì, per casa. Sono ovviamente molto più piccoli invece dei proiettori analogici. Noi abbiamo inseguito un po' questa cosa, primo perché comunque Arcadia aveva l'immagine, e da sempre noi inseguiamo questo, di essere all'avanguardia e di poter dare al nostro pubblico, ai nostri spettatori, il meglio che è possibile dare. E quindi abbiamo cavalcato subito questa cosa fin dall'inizio. E gli obiettivi all'inizio erano quelli di garantire uno standard di proiezione dal primo giorno fino all'ultimo elevato, perché purtroppo questo con la pellicola non era sempre possibile. Il secondo problema che ci spinse era quello che normalmente le copie analogiche, c'era una prima copia che veniva ricavata dal negativo, per cui non dico solo di ottima qualità, ma veramente di altissima qualità. Poi invece tutto il mercato, la distribuzione che doveva moltiplicare questa copia per 600-700 copie a seconda delle uscite che venivano fatte, praticamente creavano degli internegativi da questo primo positivo, e man mano che aumentava il numero di copie che venivano stampate, calava la qualità di queste copie. Sì. E un ulteriore danno veniva provocato dalla proiezione continua. Fai conto che un film importante magari stava in programmazione anche per più di un mese, due mesi. E il passaggio di 4-5 volte al giorno di questa pellicola nei proiettori analogici chiaramente portava a usura e quindi a un calo di qualità. E quindi tutte queste cose le abbiamo sicuramente superate col digitale. Sì, quello della conversione è sicuramente interessante. Gianfranco, quello che dicevamo prima, cioè che ancora oggi, ma oramai diciamo è un mercato residuale di film che vengono creati in analogico, poi convertiti in digitale, va a scomparire, e quindi vanno a scomparire anche le conversioni, che sono uno dei problemi principali per mantenere la qualità dei film, uso anche io questo termine. Sì, la sappiamo dal mondo dell'audio, per esempio, che ogni copia analogica porta un decremento qualitativo importante, un decremento che si sente nel caso dell'audio, ma si vede nel caso della pellicola, è proprio quello che diceva Fumagalli prima. Quindi tutte queste copie analogiche di pellicola per arrivare fino alla copia che va in sala, nell'interpositivo, cioè l'internegativo e l'interpositivo, chiaramente crea un decremento qualitativo importante. Quindi la copia ideale cinematografica di pellicola, sì, potrebbe potenzialmente essere molto più bella, ma quella che poi fisicamente va in sala spesso non è così bella. Poi ci sono anche procedimenti di copia per risparmiare un po' sulla copia, la copia d'acqua, eccetera, eccetera, che ha portato un ulteriore decremento qualitativo. Se noi fossimo in laboratorio, sì, è meglio diciamo, una catena produttiva tutta in pellicola, quindi riprendo in pellicola, poi monto in pellicola e poi faccio vedere il film in pellicola, o in digitale? Perché il digitale non è detto che sia sempre meglio, no? Allora, se il film è girato in maniera molto attenta, soprattutto sotto il punto di vista della fotografia, quindi le luci sono ottime e abbondanti, ecco, la pellicola ben esposta offre una qualità incredibile, probabilmente superiore alla stragrande maggioranza delle catene digitali di oggi, che hanno comunque almeno un passaggio in 2K spesso, non sempre, poi parliamo magari di cos'è 2K e 4K. Il problema è che questo accadrebbe in laboratorio, quindi soltanto in laboratorio, perché c'è il procedimento delle copie e ci sono poi i graffi della pellicola. Non a caso, quando si vede poi il film magari nei cineforum, nelle sale parrocchiali, eccetera, eccetera, che quindi è già stato in tutte le sale di prima visione, seconda visione, poi arriva dopo un anno in queste sale, ecco, queste pellicole spesso sono graffiatissime, molto molto molto quindi rovinate. Diciamo, allora, in la copia digitale invece è una copia digitale. Chiaro che bisogna garantire che tutta la catena sia digitale, perché se noi facciamo in mezzo alla catena delle conversioni, non significa che quindi avremo un buon risultato sul digitale. L'esempio più classico che abbiamo sperimentato tutti sono i primi DVD. Allora, chi si ricorda i primi DVD più di un decennio fa, venivano da master analogici, spesso da master pensati per i VHS, che venivano poi montati su un DVD. Il fatto che fossero su un DVD non era di per sé garanzia che ci fosse una qualità intrinseca. La qualità c'è soltanto se tutta la catena è rispettata, e questo vuol dire anche per la fase più analogica della catena digitale, cioè la ripresa, che anche se viene fatta in digitale deve essere fatta con delle luci adeguate, dato che la sensibilità delle videocamere non è come la pellicola, è variabile, quindi proprio come succede per le fotocamere digitali, posso variare la sensibilità a seconda delle scene, viene la tentazione a molti registi, diciamo, di magari produttori più che registi, di risparmiare tempo e denaro sulla messa a punto del set, quindi, e delle luci, e girare con un po' meno luci, ma poi alla fine la videocamera inserisce del rumore, il rumore poi si vede, è difficile da comprimere, eccetera, sì, eccetera, sì, eccetera, sì. In tutta la catena poi può portare un decremento qualitativo. Oh, ricordiamo che Gianfranco Giardino sta parlando di rumore come non sonoro. No, è rumore, disturbi, diciamo, una grana digitale, ecco, chiamiamola. È importante. Comunque, diciamo così, visto che ci sono poi quelli che ci scrivono e dicono però la pellicola, insomma, la pellicola si è ritirata dalla gara. La pellicola non c'è più. Esatto. Adesso abbiamo una pausa, riprendiamo tra poco. Questo è 2024. 2024. Riprendiamo questa puntata. Vi ricordo che ci trovate anche su Facebook, nella nostra pagina Facebook cercate 2024, oppure anche su Twitter cercate 2024, oppure anche Enrico Pagliarini. Potete dialogare con noi anche attraverso questi sistemi, ma se il vostro intervento è un po' lungo e complesso, allora non esagerate, potete scriverci quello che volete, magari, insomma, se siete sintetici meglio. Comunque, in questo caso utilizzate 2024 et radio24.it, quindi la nostra casella di posta elettronica. Ringrazio i nostri ascoltatori che ci hanno scritto nelle ultime settimane, cerchiamo di rispondere a tutti, anche a quelli che ogni tanto magari ci correggono. Devo dire che alcuni ascoltatori sono molto attenti e alcuni dettagli sono anche utili per puntate successive. Ringrazio anche coloro che ci offrono degli spunti di riflessione per temi, per le nostre puntate. Dunque, vi ricordo che dalla prossima settimana saremo al Consumer Electronics Show, al CES, che si svolge a Las Vegas a partire dal 7 di gennaio. Quindi raccoglieremo tutte le novità sul mercato del 2014 al Consumer Electronics Show a Las Vegas. E anche da lì realizzeremo una puntata speciale come abbiamo fatto lo scorso anno. Stiamo parlando di cinema digitale perché il 2014 sarà sicuramente l'anno in cui tutto il mercato e tutta la catena di produzione e distribuzione dei film e del cinema passerà completamente al digitale. Ne stiamo parlando con Gianfranco Giardina, direttore del magazine digitale dday.it, e Piero Fumagalli dell'Arcadia, nata a Melzo, che poi si è sviluppata in altre località attorno a Milano con tre multisala, uno dei primi che è passato al digitale. A proposito di qualità, abbiamo parlato prima di qualità, allora, una cosa che va detta, Fumagalli, non è che automaticamente il digitale fa rima con qualità sempre. No, certamente, guarda, poi tra l'altro si stanno verificando veramente delle cose spiacevoli, nel senso che noi adesso riceviamo un file con delle informazioni, ci sono dei film la durata di due ore, prendiamo la durata di due ore, contengono 170-180 giga di informazioni, e poi ci sono dei film che invece ci arrivano con solo 50-60 giga. Quindi è chiaro che questi due film non li vedremo nello stesso modo poi in sala. Purtroppo, come sempre, insomma, si parte con un piede e poi dopo man mano, per tutta una serie di motivi, di costi, okay, per cui si sta verificando, secondo me, una cosa spiacevole, insomma, che speriamo che sia legata semplicemente al fatto che siamo agli inizi e magari non tutti se la sentono. Quindi, di affrontare certi costi. Sì, sì, è un problema produttivo sostanzialmente. Certo, perché con la scusa di dire lo facciamo con poco, allora fanno i film anche con pochissimo, non con poco. Gianfranco. Sì, porto il caso per esempio di un film che è Oblivion, che è un film con molti effetti speciali, che è andato in sala non tantissimo tempo fa. Ecco, Oblivion è stato girato interamente in 4K, quindi ha una risoluzione di 4096x2160, quindi una risoluzione molto alta. Poi al momento di fare l'editing, ho parlato col produttore, quindi me l'ha proprio spiegato, no? Sì, al momento di fare l'editing di questo film, purtroppo si è verificato che applicare tutti gli effetti speciali in 4K sarebbe costato molto, perché gli effetti speciali erano molto, di investimenti, ma anche di tempi, di settimane di lavorazione, proprio perché le workstation avrebbero dovuto calcolare una risoluzione più alta a tutti gli effetti speciali. Il risultato quindi è stato che, sia per risparmiare tempo, che poi spesso è denaro, e denaro proprio in investimenti per le macchine che erano più sofisticate, è stato deciso di fare tutto l'editing in 2K. Quindi il film è stato girato in 4K. Poi però durante la catena produttiva si è scalati a una risoluzione di un quarto e si è rimasti in quella risoluzione fino in fondo. Adesso però ti tocca spiegare che la differenza tra il 2K e il 4K. È come nel mondo delle TV, cioè 2K è full HD e il 4K invece è 4 volte una risoluzione superiore. Quasi, perché ci sono piccole differenze. Il rapporto di forma del cinema è 1,91 e non 1,77:1, cioè non è 16 noni, quindi è un po' più largo il proiettore cinematografico, quindi ha un po' di punti in più, ma è 2048x1080, quello che chiamiamo 2K cinematografico, ed è una risoluzione quadrupla, quindi moltiplicata per 2 sia in altezza che in larghezza, di 4096x2160, e non tutte le sale hanno proiettori 4K, non tutti i film hanno master in 4K, non tutti i film sono girati in 4K, quindi noi avremo, non è una garanzia, dice vado in una sala dove c'è un proiettore 4K quindi vedrò necessariamente meglio, no, dipende se il film è girato e distribuito in 4K. Sentiamo Fumagalli su questo. No, è così. È così? Assolutamente. Lo spettatore lo sa se va in una sala? Ma guarda, io credo che lo spettatore alla fine tra due non siano molti quelli che, poi dipende anche da quanto è grande lo schermo, nel senso che su una dimensione che è quella media degli schermi che vanno 10 a 11 metri di base, una proiezione in 2K o in 4K cambia poco. Quanti degli spettatori la riescono proprio a identificare, a dire ma questo qui non è in 4K, è in 2K. Invece è chiaro che se vai su dimensioni maggiori, per cui gli ingrandimenti aumentano, per dire, noi in sala energia è indispensabile il 4K. Ah certo, perché sennò si vede la grana del esatto, film. Esatto, sennò vedi proprio tutti i puntini. Sì. Però vabbè, diciamo che normalmente la grandezza degli schermi è molto più piccola. La media che una volta era stata fatta mi sembra che sia 12, 11 o 12 sì, metri. Sì, sì, certo, mediamente non sono grandissimi gli schermi televisivi. Piccolo. Ma quindi... Finisco solo sul 4K. In realtà i film in 4K sono pochissimi. L'unica casa è la Sony, che distribuisce anche in 4K, perché chiaramente è legata anche al fatto che produce le macchine per riprendere in 4K, e quindi vuole garantire una certa catena, forse pensando anche a Lone Theater, sai che producono anche ormai già televisori in 4K. Sì. Poi non ci sono ancora, diciamo, i contenuti o comunque gli oggetti per riprodurre questi contenuti, però vabbè, è vero che cioè, ci sono già i TV 4K di cui abbiamo parlato spesso a 2024. Fumagalli, siamo ancora in una fase di passaggio, perché immagino che nel giro di pochi anni, speriamo in pochi anni, tutto sarà ripreso in 4K. Prodotto e modificato, parlo di effetti speciali in 4K e poi anche visto in 4K. Sì, io per la verità c'è un altro aspetto a cui credo parecchio, e anche questo arriva ancora dal mondo analogico, che è invece la proiezione ad alta frequenza a 48 fotogrammi, che è quella che stiamo usando anche adesso per Hobbit, o anche a 60. E vorrei ricordarvi che 15 o 20 anni fa, 20 anni fa credo di più, con Tremble, che era l'addetto agli effetti speciali di Kubrick in 2001 di Siena nello spazio, era stato prodotto in Lombardia un documentario su Leonardo a 60 fotogrammi al secondo con la fotografia di Rotunno. Sì. Quindi non in 3D, ed era veramente una cosa eccezionale. Quindi è probabile che, anche se adesso l'iframe è partito un po' in sordina, perché l'ha usato solo Hobbit sia l'anno scorso col primo episodio e quest'anno col secondo, ma pensare di passare all'iframe anche nei film normali, in 2D normali, credo che potrà portare veramente un aumento di qualità. Mm-hmm. Può essere recepito anche dal pubblico. Ecco, giusto per avere un'idea, la pellicola a 24 fotogrammi al secondo, Hobbit viene proiettato a 48 fotogrammi al secondo, ma in realtà l'ideale, e comunque ho visto dei test fatti ancora col 70 mm, a 60 fotogrammi al secondo, che è la velocità con cui noi vediamo i nostri occhi, vi assicuro che la qualità è sbalorditiva. Ecco qua, allora facciamo spiegare a Gianfranco Giardino, questa cosa vale anche per l'immagine che noi vediamo sui televisori, cioè la fluidità dell'immagine è legata a quanti fotogrammi al secondo passano. Certo, assolutamente spiega. Anche se noi per esempio nel Blu-ray, quindi la migliore trasposizione video del mondo cinematografico, siamo abituati appunto a vedere a 24, il cosiddetto 24p, quindi 24 fotogrammi al secondo, perché la sorgente è quella, perché il cinema è quello. Cioè, se l'aumentiamo cosa succede? Se l'aumentiamo i movimenti diventano sicuramente più fluidi, più naturali. Non ci sono questi micro scatti che fanno parte dell'estetica cinematografica che abbiamo vissuto fino ad oggi. Sì, non ce ne accorgiamo, ma... Ce ne accorgiamo, perché qualcuno, per esempio qui girerei la domanda magari a Fumagalli, ecco, in molti mi dicono, ma sicuramente lui è un campione più ampio, che l'iframe rate dà quell'estetica un po' più video e un po' meno cinema, che non piace a tutti, proprio perché poi è tutta questione di abitudine, evidentemente è migliore, però si perde un po' quella micro scattosità, permettetemi di dire così, di quale ormai ci siamo abituati, che fa l'estetica cinematografica. Qualcuno dice si vede un po' come una telenovela. È così, Fumagalli? Ma dunque dipende dal pubblico con cui parli di queste cose. Ti porto l'esempio di questo periodo. Hobbit è a 48 fotogrammi e in sala energia viene proprio tutto un mondo di super appassionati. Questi lo adorano, cioè ne parlano in modo, hai capito? È vero che il pubblico invece che non è così attento, che okay, dice ma sembra vero, cioè dicono perché in realtà spariscono tutti questi satelliti che a mio avviso sono fastidiosi, però è probabile che a qualcuno crei, non lo so, un secondo me non ci si fa troppo caso quando va al cinema. No, è soltanto una questione di abitudine. Quando tu vedi meglio, anche se non sai perché o non ci fai caso, secondo me poi dopo, alla fine... Ci si abitua. Fumagalli, il mondo, diciamo, digitale, quindi tutta la catena produttiva, e ma soprattutto per quanto vi riguarda, costa meno? In questo momento no, perché i proiettori sono ancora costosi. Costa un proiettore? Ma guarda, mediamente sui 60.000 euro. Diciamo che un prezzo medio per uno schermo, come dicevamo, di 10-11 metri sono sui 60.000 euro. Quindi nella sala energia, dove lo schermo è triplo, quanto costa? Fai conto che in sala energia ci sono due 4K che sono costati 120.000 euro l'uno. Però. Questo per dirti. E usiamo delle lampade ancora a 6.500 valluna che vanno contemporaneamente. Ecco, qui stiamo aspettando un altro gradino che sarà il laser, che ci permetterà probabilmente di usare un solo proiettore, perché con un laser forse... Però siamo ancora veramente a livello di sperimentazione, poi ci sono parecchi problemi da risolvere ancora. Ci sono delle marche particolari nel mondo del cinema o le stesse che noi ma abbiamo? Ma guarda, quando... c'è una marca, non so, credo che possa anche farla, che è la Christie, sì, ma te la dico non per fargli pubblicità, ma solo perché è l'unico produttore di proiettori analogici che ha capito ed è saltato nel mondo digitale, però si è portato con sé tutto un bagaglio di esperienza del costruire i proiettori analogici che ha inserito nei proiettori digitali, di semplicità e che invece ha mancato agli altri che arrivavano dal mondo elettronico, per dirti Barco, tutte che fanno degli ottimi proiettori, ma a mio avviso a loro è mancato questo passaggio e questo fatto di arrivare dall'analogico. Certo, avere l'esperienza del mondo, esatto, del cinema. E questo io ho avuto modo veramente di vederla poi concretamente nei proiettori, nei problemi che sono nati in tutti questi anni dell'evoluzione e tutto quanto. Insomma. Sì. Il suono è meglio? Il suono, sì, beh, chiaramente. Il suono adesso, non essendo più compresso né niente, eccezionale. Ah. Quindi su quello non ci sono, non c'è nulla da dire. Non tutti sanno, perché se ne parla poco, che sulla pellicola, sia che sia Dolby Digital o la sincronizzazione con dei dischi DTS per la colonna sonora, ma comunque si parla di audio compresso, in casi del Dolby Digital molto compresso, poco più di 300 kilobyte per tutti i 6 canali, quindi una cosa diciamo da MP3 corrente, tanto poi una cosa che qua in questo caso le tracce sono tutte non compresse, sia che siano 6, 8 o quanti sono i canali del film, sono tutti non compressi. Poi e anche quindi... qua la sala deve essere adeguata però per far sentire un buon suono. Beh, certo, chiaramente questa capacità di riprodurre suoni che prima non c'erano neanche, e chiaramente poi si deve realizzare concretamente in sala, quindi con impianti adeguati ovviamente. Sì. Adesso un'altra domanda, c'è una pausa, quindi dobbiamo fermarci per un minuto, però la domanda è: ma come arrivano questi file da 80, 100, 150, 200 giga? A tra poco. 2024. Domanda per Piero Fumagalli. Dicevamo poco fa che i file che servono poi per proiettare al cinema i film digitali possono essere di 70, 80, 100 giga, ma quelli di migliore qualità o magari film un po' più lunghi possono essere di 150, 180, 200 giga. Allora, questi file, visto che la gestione non è semplice, come vi arrivano, Fumagalli? Dunque, per la verità sta veramente con grandi passi, arriva passando tutto sul satellite, quindi vengono scaricati normalmente nelle ore notturne e quindi tu nei server trovi tutti i film e poi il distributore provvede via email esclusivamente all'invio della chiave. Per sbloccare, perché ovviamente cifrati. Sono tutti. e quindi sono pochissimi quelli che ancora fanno girare driver che chiaramente... Quindi per la distribuzione è cambiato veramente, cioè il digitale effettivamente è un grande cambiamento. Anche se però all'ultimo congresso che abbiamo fatto noi giù a Sorrento, parlando un po' con le major americane, dicono che per loro costa parecchio il satellite e stanno si stanno confrontando tra di loro per capire se attraverso la fibra ottica riescono a risparmiare un po' di soldi. Ah certo, sì sì. Beh, bisognerebbe vedere. Il problema è che la fibra ottica non raggiunge ancora ovviamente tutti i cinema. Certo, a Melzo non so se c'è la fibra ottica. A Melzo non c'è la fibra ottica, per esempio. Questo è uno dei problemi di cui parliamo. Per cui, però è probabile che in futuro poi venga abbandonato, ecco, questo satellite nel momento in cui le fibre ottiche, la rete della fibra ottica sarà molto allargata. Ovviamente, ma questi vantaggi della distribuzione in qualche modo, diciamo, coinvolgono anche voi? Cioè, i distributori risparmiano un sacco di soldi. Sì. Ma è stato fatto un accordo con loro per cui loro riconoscono questo e difatti riconoscono quello che viene comunemente chiamato virtual print feed, che è una cifra che viene data all'esercizio, all'esercente che proietta il film, per contribuire in qualche modo. Sì, quindi non risparmiano solo loro. Beh, il vero risparmio, soprattutto in futuro, sarà esclusivamente loro, perché in realtà i costi, diciamo, di gestione delle sale cinematografiche non sono variati di molto, perché il personale in ogni caso era comunque ridotto all'essenziale. Fai conto che anche una struttura di 10 schermi in analogico era comunque all'interno delle proiezioni, c'era un tale capacità di automatismi, per cui una persona poteva tranquillamente supervisionare le 10 sale che proiettavano contemporaneamente. Sì, bastava cambiare le pizze all'inizio e poi andava avanti. Sì, perché una volta che si montavano i film sui proiettori al giorno di uscita, poi non venivano mai smontati dai proiettori. Tutto era in automatico, proiezione, riavvolgimento. Sì, sì. Fumagalli, gli spettatori si accorgono di questi vantaggi, diciamo, nei casi migliori dei film digitali in cui effettivamente la visione è migliore? Sì, sicuramente, guarda, perché in ogni caso sono ovviamente spariti completamente quelli che potevano essere anche errori o comunque disattenzione. Fai conto che magari, non so, per qualche motivo c'era un obiettivo o si creava dello sporco nei pattini per cui la messa a fuoco non era più perfetta. Sì, cioè, sì. Adesso tu veramente sei, io non ti dico quale tranquillità ho, perché prima spesso e volentieri mi capitava di fare questioni perché rimproveravo i miei magari di poca attenzione o che adesso sono sicuro che le proiezioni sono a fuoco e sono, capisci? Abbastanza... Ha raggiunto uno standard sicuramente maggiore e secondo me il pubblico lo avverte, perché non gli capiterà mai più di dire di uscire e dire ma lì si vede male, non è a fuoco, non Chi ha un qualche capello bianco in testa come me ricorda quando in sala si urlava fuoco. Sì, ma questo perché era inevitabile, perché a furia di passare attraverso questi pattini che tenevano la pellicola ferma nello sportello davanti all'otturatore, si accumulava sporco col tempo. Certo. Faccio una domanda proiettata, questo termine è perfetto per il mondo del cinema, a 3, 5, 10 anni. Allora oggi se uno va nelle case degli italiani vede ancora schermi televisivi di scarsa qualità, magari piccoli, non adeguati alle sale, poi non ci sono ancora le trasmissioni in alta definizione, a meno che uno si abboni a alcuni servizi come Sky che offrono trasmissioni in alta definizione, poi anche lì bisogna avere tutta una catena, anche pensare al suono, in molte case si sente male perché non nessuno ha un impianto. Poi c'è anche soprattutto non puoi sentire il volume che vorresti sentire. Esattamente. Però diciamo così, se noi ci pensiamo a 3, 4, 5, 10 anni in cui le trasmissioni in alta definizione saranno diffuse, le dimensioni degli schermi saranno più grandi o comunque adeguate alle sale delle case, ci sarà magari addirittura il 4K e probabilmente anche sul suono ci sarà qualche miglioramento. Il cinema, allora io sono convinto che molti cinema battono e batteranno sempre quello che uno avrà in casa, però come ci si può distinguere e come si può sopravvivere? Ma io credo che veramente la carta vincente è schermi, le misure degli schermi. Ma questo noi lo riguarda, pensa, ricordo benissimo che ancora all'epoca di Ultimo Imperatore, che avevamo fatto in 70 mm, si parlava con Storaro di questa cosa, di che cosa sarebbe successo fra 20-30 anni, ok? E io concordavo con lui che secondo me alla fine forse non ci sarà più senso andare a vedere film intimisti o che nelle sale cinematografiche. Soprattutto se hanno degli schermi piccoli, per cui ci sarà tutta una produzione di film che andrà a mio avviso direttamente nelle altre catene, home theater, DVD, invece credo che inevitabilmente rimarrà la necessità di vedere grosse produzioni, grossi spettacoli, film veramente dal punto di vista tecnologico molto, molto spettacolari su grandi schermi però. Sì. Quindi credo che alla fine è probabile che le sale, fra 30 anni io penso che le sale saranno molto meno, ma quelle poche che saranno rimaste saranno tutte con degli schermi enormi, con dei suoni incredibili. Sì, sì. Beh, io infatti invito gli ascoltatori ad andare alla Sala Energia, certo, se uno abita lontano da Milano deve fare un viaggio, però vale la pena e soprattutto Fumagalli, io devo dire la verità, non te l'ho mai detto, la cosa che mi piace di più, certo se il film è molto bello vale anche il film, però l'effetto iniziale del THX, questo effetto sonoro è meraviglioso, bisognerebbe metterlo in loop a ripetizione, Gianfranco. No, volevo dire che sì, sicuramente la dimensione schermo, ma soprattutto il rapporto tra la dimensione dello schermo e la distanza di visione, perché uno può avere uno schermo di 30 metri, poi lo vede da 200 metri e diventa piccolissimo. E quindi questi rapporti che sono forzati, quindi anche le sale, dove le sale intendo dire le abitazioni, i salotti, dove mettiamo oggi un 65 pollici, poi magari spesso viene visto a 5 metri di distanza. Ecco, un 65 pollici a 5 metri di distanza equivale a un piccolissimo schermo cinematografico come rapporto di visione. Sì, sì. E poi il suono. Gli impianti home theater hanno attecchito soltanto i super appassionati e oramai non vengono più neanche presi in considerazione. L'audio dei TV è inaccettabile, abbiamo detto più volte, e qualcuno per migliorarlo un po' aggiunge delle soundbar, né più né meno ricreando il suono di un vecchio TV a tubo catodico, ecco, ma quello è. Nelle sale cinematografiche, quelle buone, quelle migliori, quelle sicuramente quelle di Fumagalli, c'è una qualità audio che non è assolutamente riproponibile in casa, sia perché gli impianti spesso non sono adeguati, ma anche per il trattamento acustico della sala stessa. Noi tendiamo a dare più importanza all'aspetto video, perché l'occhio è preminente rispetto all'orecchio, ma nel coinvolgimento totale, il coinvolgimento vero è dato anche dal circondamento del suono, ovviamente con un surround ben fatto, ma proprio anche le frequenze, le pressioni sonore che subiamo. Ieri sera sono stato al cinema con mia figlia, che guarda TV credo 10 ore al giorno, purtroppo o per fortuna non lo so, e per lei è stata comunque un'esperienza magica, comunque un'esperienza completamente diversa. Sì. Finché sarà così, il cinema non ha nulla da temere. Certo. Ovviamente le piccole sale dove si vede male, si sente male, e quelle purtroppo la selezione naturale porterà probabilmente alla chiusura. Sì. Tua figlia è piccola, ricordiamo, a 4 anni e mezzo, a 4 anni e mezzo per quello che guarda TV. Bene, grazie a Piero Fumagalli per essere stato con noi. Buon anno anche a voi, ciao. Grazie. A presto, e grazie anche a Gianfranco Giardina. Grazie Gianfranco, a presto. Grazie mille. Beh, dicevamo poco fa che molti cinema che proiettano oramai in digitale ricevono questi file molto pesanti via satellite, e sicuramente questo sarà un sistema che, finché la fibra ottica non arriverà diffusamente sul territorio, sapete che questo è uno degli argomenti di cui parliamo forse più spesso 2024, dell'esigenza di una rete in fibra ottica nazionale, ma oggi non ne vogliamo parlare. Dicevo, finché la rete in fibra ottica non si diffonderà in modo capillare sul territorio, sicuramente il satellite è un ottimo sistema per distribuire file così pesanti presso gli esercenti cinematografici, anche per altri servizi, anche per altri utilizzi, laddove la rete internet non sia capillare, non raggiunga case, uffici, aziende. Abbiamo parlato proprio di questo servizio che è erogato in buona parte d'Europa da un'azienda italiana, quindi in questo caso siamo più bravi noi rispetto ad altri. Ne abbiamo parlato con Walter Munarini, che è il direttore generale di Open Sky. Beh, ormai 6 anni fa abbiamo avuto un'intuizione: il cinema da pellicola si stava convertendo a digitale. Questo vuol dire che un film diventa un file di 200-300 giga, perché la qualità pretesa dal cinema è tale per cui il file è enorme. E abbiamo capito che un mezzo molto efficiente per trasferire questo file nei cinema era il satellite, perché è in broadcast, è in contemporanea su tutti. E quindi, anche appoggiati dall'Agenzia Spaziale Europea, che a suo tempo abbiamo vinto un bando di ricerca nel 2006, abbiamo messo in piedi una prima rete embrionale che adesso è una realtà, perché ha 1100 cinema in Europa e 400 in Italia, e regolarmente ricevono 5-6 film a settimana trasmessi da Vicenza, dall'Italia, dove siamo noi. È una trasmissione digitale, non è uno streaming, cioè una diretta, è un store and forward, è una trasmissione dati, il film viene memorizzato presso un nostro decoder nel cinema e poi trasferito nei proiettori successivamente per tutte le proiezioni. Però abbiamo cambiato il nostro lavoro, quindi è puramente tecnico, dico, siamo dietro lo schermo, non siamo legati al contenuto, siamo trasportatori DHL via satellite, ci chiamiamo a volte, però siamo molto apprezzati dagli esercenti perché gli arriva il contenuto in casa, e siamo apprezzati anche dai distributori perché, oltre a prezzi più bassi, siamo più efficienti, hanno un'efficienza loro perché non devono più movimentare la logistica. È molto moderno, molto green dematerializzare il contenuto, il film va in onda senza mai aver preso una forma fisica praticamente. Quindi di fatto voi spedite via satellite un file utilizzando internet o un canale vostro? No, è una trasmissione dedicata, anche perché incominciamo ad avere un buon problema di capacità. Noi, quando dobbiamo mandare 5 film, vuol dire che dobbiamo mandare un tera, e mandare un tera vuol dire che dobbiamo un terabyte, dobbiamo usare un transponder intero, e quindi noi trasmettiamo a 60-70 megabit costantemente, e di solito ci danno il film tutti e 5. Una settimana prima. Ve lo dà il distributore. Esatto. Ci dà la produttore, no? Chi ve lo dà? È il distributore. Quello, il Warner, Disney, la Major, ma anche i minori che fanno film. Ormai tutto in digitale, eh? Non ci sono film, pochissimi sono in pellicola. Ce lo mandano una copia unica, un hard disk. Noi lo mettiamo nei nostri server e con un'antenna, ne abbiamo due in realtà, una a Vicenza e una a Parigi, un'antenna da 4 metri, trasmettiamo a 70 megabit a tavoletta, perché abbiamo 4 giorni per spedire un tera, e se manca un bit il film non funziona, perché il cinema aveva 2 requisiti: la qualità straordinaria e la sicurezza massima. Se manca un bit si accorge, gli viene un po' il dubbio e quindi non fa girare il film, e quindi noi siamo una Ferrari che però non può perdere neanche una macchia d'olio sostanzialmente, quindi veloci e perfetti. Siamo orgogliosi perché alla fine i cinema ci dicono che dormono sonni tranquilli, non abbiamo mai mandato un cinema con lo schermo nero, e poi sono contenti perché dicono non devo più correre dietro le copie fisiche. È una cosa molto moderna, non cambia il cinema dal punto di vista contenuto, perché poi il film fa la differenza, è la trama, ma cambia la vita della filiera, perché hanno più tempo allora per prendersi cura della promozione, della commercializzazione. Noi li facciamo con i guanti bianchi, un servizio che prima era di furgoni e di fuggi fuggi corri e vai a prendere le pellicole. Chi lo paga questo servizio? I distributori. E noi lavoriamo per le distribuzioni grandi o piccole, sia con Hollywood, quindi i grandi, le 7 major, ma anche i più piccoli hanno abbracciato queste, i famosi film d'essè, perché alla fine è un vantaggio pazzesco. Loro, una pellicola costava 1000 euro e quando avevano 10.000 euro... La distribuzione costava 1000 euro? Esatto. Avevano 10.000 euro di budget, facevano 10 pellicole e potevano fare 10 film alla volta, 10 cinema. Adesso noi costiamo, mi vergogno di dirlo, 50 euro. E quindi loro con 10.000 euro... mandano il film a tutti i cinema, quindi non c'è più il collo di bottiglia della copia fisica. E finalmente, noi questo lo stiamo vedendo, questa nostra innovazione digitale sta cambiando anche un po' il cinema dal punto di vista pubblico contenuti, perché si sta facendo le spalle un po' grosse il cinema di cultura. Prima vinceva solo chi aveva più soldi di marketing, perché si faceva presente, invece adesso la massa critica lo può raggiungere un film bello che però magari non ha quote di marketing, non ha spese di marketing. Invece i cinema di centro città, che hanno uno schermo, che fanno anche un lavoro con la loro clientela, però non potevano avere la copia. Adesso invece abbiamo risolto quel problema e vinca il migliore in termini di contenuti, non di portafoglio. E così concludiamo questa puntata di 2024. Come sempre grazie per la vostra attenzione, vi auguriamo un buon anno. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, come sempre grazie ai nostri tecnici e alla nostra piccola redazione. Ci risentiamo la prossima settimana. 2024. 2024. 2024. 31 seconds anywhere.